Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale, a cura del professor Stefano Malferrari. La forma sonata ovviamente non nasce un determinato giorno così all'improvviso. Non c'è un inventore della forma sonata, ma è la continua elaborazione, così come avviene in tutto quello che è oggetto d'arte, di esperienze artistiche e creative precedenti. Nasce innanzitutto da quello che era la suite. La suite era la serie di danze barocche, era di solito una composizione divisa in sei movimenti, in sei tempi, un preludio per iniziare. Bach ne ha scritti tantissimi, poi quando parleremo di Chopin vedremo che il preludio diventerà un brano a sé stante, e al preludio facevano seguito cinque danze, quindi di solito l'allemanda, poi la corrente, la sarabanda, il minuetto e la giga. I tempi cominciarono a cambiare, cominciò a cambiare il gusto e anche la modalità di scrittura dei compositori della seconda metà del Settecento, e a poco i movimenti di una forma compositiva diventarono quattro, e l'unica danza che rimase all'interno di questa forma in più parti fu il minuetto, almeno fino all'epoca di Beethoven. Quindi, quasi come se ci fosse stata una diretta conseguenza, dalla suite si passò a un qualche cosa di diverso, che era la forma sonata, che aveva appunto un primo brano brillante, solitamente un allegro, un secondo movimento più cantabile, la danza memoria della suite, il minuetto, e poi un brano altrettanto brillante, il rondò finale. Per analizzare un po' più nel dettaglio la forma sonata, avremo modo di andare a parlare del Mozart non più fanciullo, non più adolescente, ma il Mozart che si affaccia a un'età compositiva matura. Questi brani sono stati scritti quando Mozart aveva 21 anni, quindi giovanissimo anagraficamente, già in una fase che possiamo definire di secondo periodo dei tre che possono essere la divisione artistica nella vita di Mozart. Mozart nel 1777 era a Salisburgo, alla corte dell'arcivescovo principe di Salisburgo, ed era stato nominato da pochi anni, dopo quel viaggio che lo portò anche qui a Bologna, concertmeister dell'orchestra di corte, il primo violino dell'orchestra, primo violino che per l'epoca era anche quasi un direttore d'orchestra. Non esisteva la figura del direttore come lo immaginiamo oggi, con il podio davanti all'orchestra, ma era un musicista dell'orchestra che aveva il compito di governare tutto l'insieme degli altri strumenti. Ma subito dopo la sua nomina arrivò a Salisburgo il principe Colloredo, che prese tutto sommato in antipatia la figura di Mozart, non tanto come artista di genio, quanto come artista itinerante. Non era al servizio della corte così come il principe avrebbe voluto. Ecco, nel 76 Leopold Mozart comincia a immaginare un viaggio attraverso l'Europa, quindi passando per la Germania a Parigi, un viaggio che sarebbe durato circa 2 anni, dalla fine del 77 fino al 79. E di fronte a un permesso artistico così lungo, il principe Colloredo diede il permesso di viaggio a Wolfgang, ma non lo diede a Leopold, forse immaginando anche che senza il padre Wolfgang non sarebbe partito. Il dubbio ci fu, perché Wolfgang era letteralmente vincolato, non vorrei dire soggiogato, ma in qualche modo strettissimamente unito artisticamente alla figura del padre. Però lo stesso Leopold, attraverso tormenti, dispiaceri e ripensamenti e quant'altro, arrivò alla conclusione che era giusto che Wolfgang partisse. Per non lasciarlo andare da solo, aveva poi 21 anni e probabilmente Leopold intuiva una certa, forse anche non piccola, immaturità nel Wolfgang, un giovane uomo, gli mandò a seguito la madre. Fu un viaggio con diverse tappe, tappe programmate, tappe con residenze in varie città prima ad Augusta, poi a Mannheim, passando anche da Monaco, per arrivare poi a Parigi con soste che potevano durare, come a Mannheim, 4 mesi. Quindi comunque soste dove provare a mettere radici professionali. Solo che senza Leopold il viaggio diventò disastroso. Praticamente Wolfgang non era assolutamente in grado di reggere una attività di imprenditore di se stesso, di manager di se stesso, e non era certo la madre che, in qualche modo mandata solo come accompagnatrice del figlio, poteva dare a Wolfgang quei contatti, quei rapporti di pubbliche relazioni che invece Leopold era assolutamente abituato a organizzare e evidentemente in modo anche estremamente efficace. Quindi il viaggio si rivelò un disastro sotto tutti gli aspetti. Primo, ad Augusta incontrò la famiglia Weber, la famiglia aveva 2 figlie, Aloisa e Costanza, e Mozart si innamorò di Aloisa. A seguito di quello propose al padre di fermarsi stabilmente ad Augusta senza però avere alcuna possibilità reale di un lavoro in quella corte. Immaginò un viaggio per l'Italia con Aloisa Weber senza che ci fosse alcun fondamento professionale. Viaggio assolutamente non solo sconsigliato ma vietato da Leopold, e questo lo possiamo vedere grazie alle lettere, che erano un documento, se vogliamo, molto lento di comunicazione, ma che ha lasciato un patrimonio di conoscenza, di cui forse non godranno i nostri posteri con le mail e le telefonate che adesso possono permettere una comunicazione più rapida. Partito da Augusta, arrivò a Mannheim, si fermò altri mesi a Mannheim, ma non ottenne né gli ingaggi sperati dal padre né le pubblicazioni auspicate. Lungo il percorso Mozart scriveva opere nuove, cercando editori che avrebbero potuto pubblicare questi lavori, ma i guadagni derivanti dalle vendite delle nuove opere erano assolutamente insufficienti. Arrivato a Parigi, i contatti furono decisamente deboli. Non ci fu quella stima per Wolfgang, forse anche dovuto al fatto che non c'era Leopold a mediare un lato umano evidentemente debole in Wolfgang, e quindi i contatti professionali si rivelarono altamente insufficienti. Non ultimo, durante la permanenza a Parigi, poco prima della partenza da Parigi, la madre di Wolfgang morì per una malattia improvvisa, e quindi nel giro di alcuni mesi Wolfgang fece ritorno alla corte di Salisburgo, dove il padre riuscì a farlo riassumere, perché un'assenza così prolungata era stata fonte di un licenziamento fondamentalmente, quantomeno di una messa in aspettativa, diciamo così, da parte dell'arcivescovo di Salisburgo, e venne fatto assumere come organista della cattedrale, quindi un lavoro che senz'altro era decisamente inferiore a quello che poteva essere il primo violino della corte di Salisburgo. A seguito di quello, poi nel giro di 2 anni, cominciarono gli screzi irrecuperabili che portarono Mozart ad allontanarsi dalla corte e andare a vivere a Vienna, cercando fortuna, facendo per la prima volta il primo caso di musicista libero professionista. Però, lungo il percorso, al di là delle vicende personali, Mozart conobbe ad Augusta il costruttore di fortepiano Stein, uno dei principali costruttori di fortepiano della seconda metà del Settecento. Stein fu un assoluto innovatore della qualità del suono, dovuta a una meccanica sempre via via più perfezionata. E a Mannheim Mozart rimase affascinato dalla qualità dei musicisti della corte, soprattutto dalla qualità dei musicisti a fiato, dei professori d'orchestra, di corno, di tromba, di clarinetto. Da quel momento Mozart comincerà a scrivere opere tenendo a mente il suono del clarinetto. Al di là del concerto celeberrimo per clarinetto e orchestra, una delle opere più alte di Mozart c'è il quintetto, quartetto d'archi con clarinetto, quindi 5 strumenti, dove ci sono il quartetto classico più un quinto strumento che è il clarinetto, uno strumento assolutamente anomalo, era uno strumento di ripieno nell'orchestra. Ma la qualità di questi musicisti fece immaginare a Mozart un impiego differente da quello che non fosse la parte funzionale a un ripieno sonoro di quello che era l'orchestra d'archi. In questo percorso Mozart scrive 7 sonate, la K309, 310, 311, 330, 31, 32 e 33. Sono 7 sonate scritte nel corso di questi 2 anni di viaggio, quasi una sorta di diario di viaggio non inteso come potevano essere gli anni di pellegrinaggio di Franz Liszt, però un percorso sonoro che prende anche spunto da quello che Mozart incontra, non dal punto di vista dell'immaginazione, ma proprio dal punto di vista tecnico, quasi una sorta di resoconto tecnico di quello che sono le nuove conoscenze che Mozart va a fare. Scrive questa sonata, una di queste sette che vi farò sentire oggi, che è la K311, la sonata in re maggiore, in tre movimenti. Dicevo che la forma sonata completa era in quattro movimenti. Era una forma tutto sommato imprescindibile per un compositore. Un compositore che volesse definirsi tale, o un compositore con la C maiuscola, dalla forma sonata doveva passare, essendo una forma architettonica della musica, che quindi non aveva obbligo di uno strumento specifico. Poteva essere una sinfonia, poteva essere un trio, un quartetto d'archi, una sonata per violino e pianoforte, una sonata per pianoforte. Era il modello di costruzione che il compositore decideva. La forma sonata prevedeva quattro movimenti, ma nulla vietava che un compositore, tutto sommato, alleggerisse di un movimento la sonata, e di solito veniva alleggerita della danza, del minuetto. In questo caso abbiamo appunto un primo tempo un allegro, un secondo tempo un andante e un terzo tempo un rondò. Il primo movimento della forma sonata ha al suo interno un'architettura. È composto in tre parti, una cosiddetta esposizione, dove viene esposto l'argomento, uno sviluppo, dove l'argomento viene in qualche modo appunto sviluppato o trattato, e poi una ripresa, come se l'argomento iniziale venisse ripreso per chiudere la conversazione. Nella esposizione ci sono due temi. Per tema potremmo definire quello che sono due argomenti. Un primo tema più energico e il secondo tema solitamente più languido, più cantabile. Nel primo movimento di questa sonata, il primo argomento è decisamente brillante. Questa era la prima idea, il primo argomento proposto. A questo, e questo vale per la grandissima maggioranza delle forme sonate, dopo questo c'è una piccola pausa e comincia la seconda idea, il secondo argomento proposto, più morbido. Faccio sentire uno di seguito all'altro, sentirete che è come se proposto un tema, dopo ne venisse proposto uno che fa da contraltare di carattere, un carattere più brillante all'inizio e più languido, più melodico subito dopo. Principale, il tema A e il tema B. Ecco, lo sviluppo è la elaborazione di questi due temi, un po' come se i due temi si fondessero in un'unica idea. La musica ha il vantaggio fantastico di poter proporre idee diverse contemporaneamente. Se noi nel teatro di prosa mettiamo due attori che propongono due stati d'animo diversi, parlando uno sopra l'altro, non riusciremo a seguire né l'uno né l'altro. Con la musica, se prendiamo due cantanti in scena nel teatro d'opera, dove uno manifesta allegria e l'altro invece qualcosa di malinconico, nello stesso momento cantando perfettamente insieme, beh, le due cose si possono fondere magnificamente e riusciamo a seguire le due linee contemporaneamente, sia come fusione che come caratteristiche diverse della loro emozione espressa in suoni. Poi c'è la ripresa, che riprende. Di solito la ripresa tralascia il tema A, in questo caso no, però di solito parte solo dal B, e dal B porta praticamente alla conclusione. Vi invito, vi esorto, quando mettete su un CD, una sinfonia di Mozart, una sinfonia di Beethoven, una sonata per violino e pianoforte, e al di là del piacere di ascoltare musica, provate per un quarto d'ora a cercare queste forme architettoniche che sono all'interno di questo linguaggio. Probabilmente la prima volta sarà una nebbia totale, una giungla, ma vale anche per me. Se io ascolto una sinfonia di un compositore che non ho conosciuto, del periodo classico, cercando di ritrovare queste forme, questi elementi, beh, non è automatico che io li riconosca subito, perché una volta che sono passati, e quindi posso averli persi. Però diventa un'abitudine, trovare, ritrovare, il primo tema c'è subito, quello è facile. Un pochino più difficile trovare il secondo, però basta vedere quando arriva quel momento di pausa o di stasi che porta a qualcosa di più morbido. Questo è il primo movimento di una forma sonata, che è quello poi più elaborato: esposizione, sviluppo, ripresa, e due temi nell'esposizione. Poi c'è il lied, quello che è il movimento più morbido, più cantabile. In questo caso con Mozart abbiamo un esempio di sviluppo di quello che era la delicatezza del barocco. È un tema in sol maggiore, e la prima idea tematica è quasi un quartetto d'archi. Nel lead non c'è un limite ai temi. In questo caso Mozart ne userà, come vediamo, tre. È un canto, come se fossero le strofe di una canzone. C'è una prima idea tematica che si unisce subito a una seconda e poi comincia una terza. Ecco, la cosa importante è che il lead ha una ciclicità. Praticamente una prima esposizione, poi una seconda esposizione e poi in questo caso ne abbiamo una terza che va a concludere. Ecco, quindi c'è la prima linea tematica. Poi c'è un punto di collegamento. E una terza idea. Tre idee di melodia, tre idee dolcissime, concatenate l'una con l'altra. Non c'è contrapposizione tra una prima idea più incisiva e una seconda più languida. È proprio il gusto della linea melodica. E questo è quello che compone il secondo movimento della sonata. Manca il minuetto, manca la danza. E il terzo, quello che conclude la sonata, è un rondò. Il rondò nasce come danza, ma poi diventa un brano di virtuosismo, che per l'epoca è un virtuosismo abbastanza contenuto, non è il virtuosismo trascendentale di Liszt o degli autori dell'epoca del secondo Ottocento. Però è un brano brillante, un brano agile. E la forma del rondò è ancora più ripetitiva, anzi è facile da ricordare. A, ba, ka, ba. A, B, A, C, A, B, A. In pratica il tema A ritorna più volte, inframmezzato dalla B e dalla C. Quando vogliono ridurre un po' è A, B, A, C, A, fine. Questo tema in Mozart lo troviamo, è un tema quasi da musica da caccia. Era una caratteristica dell'epoca classica. Era la musica che veniva fatta con i corni, con gli strumenti a fiato, con gli ottoni. E doveva essere la musica esaltante, la musica che dava un'idea di energia vitale. Ecco, questo tema, il tema A, di questo brano. C'è un tema B, rispetto agli altri. In questo caso è un tema un pochino più morbido, quasi un po' più languido. Delle tipologie di scrittura che sono tipiche dell'orchestra. Ad esempio, troviamo a un certo punto un tema che sono quattro note. Queste quattro note vengono proposte prima in un registro medio, poi in un registro un po' più basso, poi in un registro acuto e infine in un registro estremamente basso. Messe così sono pochissime cose, ma se fossero suonate in un'orchestra ci sarebbe un clarinetto, un violoncello, un violino o un flauto e un contrabbasso. In pratica, sfruttando i vari timbri delle varie altezze del pianoforte, Mozart comincia a riprodurne nello strumento che maggiormente era da casa, lo strumento anche per gli amatori, comincia a riprodurre l'orchestra, i registri dei timbri dell'orchestra. Non è più soltanto il forte e il piano, ma il colore dell'orchestra. In questo caso, queste cinque note, quattro più una, quella di arrivo, non fanno altro che ripetersi, ma con caratteristiche timbriche differenti, che è quello che sfrutta il compositore di musica sinfonica, che fa passare un tema da una sezione orchestrale all'altra. E poi altre cose. Troviamo un inizio, quello del primo movimento, che è quasi un tutti dell'orchestra. Serve quasi a richiamare l'attenzione, quasi come se ci fosse un battitore che annuncia l'inizio di qualcosa. E poi comincia il vero e proprio tema, con l'agilità dei violini. poi la leggerezza dei flauti, di nuovo i violini e di nuovo i flauti. Al tutti dell'orchestra, e quando entra il secondo tema, siamo in La maggiore, la tonalità del clarinetto. È quasi come se Mozart volesse imitare il suono degli strumenti conosciuti sul pianoforte. Tra l'altro, per chi ha avuto frequentazioni con gli strumenti, con il clarinetto per esempio, il clarinetto ci sono due tipologie, quello in si bemolle e quello in la maggiore. E questo tema è in la maggiore, la tonalità del clarinetto. Poi c'è anche quello in do, però c'è il clarinetto in si bemolle e il clarinetto in la maggiore, che sono gli strumenti dell'orchestra. La sonata K311 di Mozart. Tre movimenti. Il primo movimento è allegro con spirito. Quando vi dicevo che il primo tempo è un allegro, quando un compositore può dare le proprie indicazioni, allegro moderato, allegro vivace, allegro con spirito, allegro molto, ma fondamentalmente è il termine allegro un qualcosa che identifica il primo movimento di una forma sonata. Il secondo è un andante cantabile e il terzo un rondò che Mozart definisce allegro, un'idea di andamento agile, qualcosa che portasse presto alla fine del brano, una sonata che dura circa 18-20 minuti. Avete ascoltato Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale, a cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.